che funziona la direttiva, quella che ho io. E funziona bene, funziona bene. Sì. Purtroppo i cosi, i Bafeng sì, sono, c'è questo ricevitore DSP, no, che però è molto poco filtrato, capito? Tutto quello che entra dentro potrebbe recare disturbo, anche da bande molto molto lontane. Una cosa sodata, non hanno parlato sui forum, hanno fatto prove dettagliate, tipo attacco questo e ricevo, attacco questo e non prende più nulla. Sempre solo a determinate condizioni, capito? In base alle zone, in base a tante cose, dai. Ma il doppio room dov'è? È rientrato? E Antonio era entrato, ho sentito la risata prima quando ho detto che davo il colpo al drone con la chicchia, lo buttavo giù. Comunque privacy, a parte gli scherzi, privacy non c'è più da nessuna parte. Cioè se tu vuoi andare su un tuo terrazzo, no? Dove non ci sono palazzi più alti dove ti possono spiare, no? Uno vuol salire, pigliarsi il sole, nudo se vuole, perché è casa sua. Non viene visto da nessun palazzo intorno. Passa qualche drone di vigili urbani che stanno sempre a cercare il pelo nell'uovo. Ti vedono nudo, magari ti fanno storie. State entrando voi in casa mia a riprendere in casa mia, capito? In quel caso. La privacy non esiste, non esiste nel computer niente. Da quando hanno fatto la legge sulla privacy hanno fatto tutto l'opposto. Adesso con la scusa del tampone stanno prelevando il DNA a tutti. Naturalmente non lo dicono, così c'hanno, è come che vi prendano le impronte digitali, il DNA, quindi se mai dovesse succedere qualcosa sanno già a chi collegare il DNA, di chi è. Ma la tempora corrunt. E va a vedere anche gli UPAD più urbani. Beh, se mi può fare, ciao va. Ciao, ci sentiamo più tardi, io devo uscire. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Antò, buona serata, buon tutto, buona doccia. Oggi si respira e vai Antonè. Antonello si è allontanato. Capito già. È come la storia di Orwell, no? Il Ministero della Verità si occupava di, invece proprio delle menzogne, di falsificare tutto, giornali, libri, quotidiani. E i termini sono gli stessi. Quando ti fanno leggi per garantire la privacy fanno tutto l'opposto. Telecamere a ogni angolo di strada, poi adesso hai visto già che ci sono quelle telecamere che riconoscono, come lo smartphone riconoscono la fisionomia del volto, cioè praticamente sanno dove passi ogni minuto, e, come si chiama, i dati biometrici, riconoscono il volto di ogni persona, ma da tanto c'è questa tecnologia nelle grandi città, adesso sta arrivando anche da noi. Ci sono anche gli impronti digitali che ti prendono dalla casa in città. Ehi, poi lo smartphone, ma tu cosa credi, che non sia uno strumento di controllo lo smartphone? Cioè, prima dovevi mettere la password, e vabbè, e quello era, è un conto, però questo è il sensore per l'impronta digitale già. Loro ti garantiscono che dal tuo cellulare non escono i dati dell'impronta, tu ci credi? Quelli andranno dritti all'NSI, NSA, NSI. Lo stesso, sblocco col volto, tu credi che i dati biometrici del volto o la foto del viso stessa non la invino segretamente all'NSI e per quelle cose lì. Poi mi pare che alcuni Apple hanno lo sblocco con l'iride, riconosce l'iride del proprietario, anche quella, ci siamo fregati con le nostre mani, capito già, questi smartphone. Yeah, poi va a fare la caratteristica, ti prendono anche l'impronta digitale, capito? Ah sì, ma come la prendono? Con l'inchiostro tipo frasi di polizia o come la prendono? Con un sensore tipo smartphone? Io ancora con la vecchia. E scada nel 2022 o 21 o 22, non mi ricordo. Comunque se mi obbligano a cambiarla la cambio, ma tanto non ne ho mai mostrato in vita mia, credo. Non... tanto ai posti di controllo si mostra la patente quando guidi, capirai. Anche la patente vecchia c'ho me, quella rosa, me, di carta, bella, con la foto grande, a me piacciono, piacevano così. Queste carte di credito mi fanno ridere a me, boh. Sono tutte nuove, c'è la patente che è la carta di credito. No, io già la uso, l'ho usata anche ieri, sono andata a fare una visita lì, se non ho chiesto la fotocopia della carta di credito, se no ti faceva la visita. Sì, aspetta, stavo bevendo. Vabbè, state entrando un po' in questi giorni, io non... Sto facendo altra roba, poi anche per mia zia, là, sto aiutando a fare roba, così è più generosa. Ah, e già, c'è così, sì, ieri siamo entrati, sono già a Franco. Soli siamo, Antonello Pomponio c'è ancora. Pomponio si è dormito, come ho fatto io poco fa, che mi sono addormentato. Ehi, oggi sta bene però, abbiamo le finestre aperte, passa l'aria da una parte all'altra e si respira. Ma l'altro ieri, per carità di Dio, guarda che sta diventando per me un problema uscire, io non sto più uscendo. Cioè, per fare la spesa, cioè, mi ammazza a me il sole, il caldo, in macchina mi ammazza, non c'è climatizzatore che tenga, perché poi la poltrona è bollente. Non le scatole piene nell'estate, dai. Se ci lo chiede le finestre, c'è il condizionatore, c'è un po' con faccia, c'è la camera di cappello, c'è la bollina, c'è la... c'è sto asciugando. Sì, infatti in estate bevi molto, idratati, perché soprattutto ai giorni caldi con la sudorazione si perde molto, si perdono sali minerali, eccetera. Soprattutto bisognerebbe bere acqua gassata, che è la sale minerale, non quella normale, io bevo acqua, sì, ce l'ha, è proprio naturale. Beh, però i sali minerali si trovano anche nell'acqua naturale, diciamo che la gassata è uno spiccio in più. È solo che per me è più stuzzicante, frizzante. L'acqua normale, mamma mia, sembra di bere acqua di rubinetto. Così sembra una bibita invece, no, frizzante. E poi ogni tanto provavo quello che provavi tu, il latte con la menta. L'acqua frizzante con la menta. Eppure io preferisco tuttora il latte e menta. Mi pare si chiami Tropical al bar. Oh, al bar te lo fanno pagare 3 euro. Ma te ne immagini, 3 euro. Che con 3 euro io ci compro la menta e 3 o 4 litri di latte. No, vabbè, 2 dai, 2 o 3. Diciamo che la menta è molto importante, non è molto dolce, infatti io mi faccio mettere la pagata. Io la pagata, se la prego, bevo San Martino, e San Martino è quella che costa di più. È l'unica che mi piace, Marco, c'è poco da fare. Gazzata è l'unica che mi piace. A me quell'acqua è un po' meno, mi ricordo una volta erano, sapevano molto di io li chiamavo sali inglesi, no, troppi sali minerali. Ah sì, comunque di menta, essendo troppo dolce, ne metto poca, ce ne metto il giusto per avere il sapore di menta, ma non deve essere stucchevole già, sennò si fa bombare. No, sciroppo è certo. A me piace molto il ghiacciolo, la menta, eh? Preferisco la menta, mi piace molto. Io la menta, io non mangio un ghiacciolo alla menta da forse 40 anni. Una volta da piccoli c'era il ghiacciolo multigusto. Piccoli diceva menta, arancia, Coca-Cola, limone. Quanto tempo è passato? Quando eravamo giovani e felici, adesso un po' meno. Marco, l'arcobaleno si chiamava. Arcobaleno, e chi lo faceva, te lo ricordi? Mi sa la Motta, mi sa che era della Motta. Oggi da Motta, se non mi ricordo. Come si chiamava? Arcobaleno, forse l'Algida lo faceva. Eia, poi il Calippo, vabbè, diciamo, quando ero bambino sì, il ghiacciolo lo gradivo di più, però poi preferivo di più i gelati. roba più consistente, coppette, il cono, roba più buona, più nutrienti anche, no? Cioè non solo acqua e zucchero, mi acqua colorata. Poi avevano fatto il dittone, il piedone, e io me ne stavo uscendo un'altra volta con un amico, ho detto, adesso fanno anche il cazzone, ho capito, il ghiaccio a forma di cedda. No, io ne consumo un valanghe di ghiaccioli, non ne compro a scatole, ma io gli ultimi che ho mangiato, le ultime due scatole le ho finite 2 giorni fa. E ci sono tutti i gusti, c'è al limone, c'è alla menta, c'è frutti di bosco e c'è la Coca-Cola e all'arancia. Eia, allora, per esempio mamma preferisce il gelato alla frutta, quando lo compri comunque sfuso, no? Tipo platamona. Io preferisco più le creme, che ne so, toroncino, zuppa inglese, tiramisù, quella roba lì. Io ultimamente ne ho assaggiato uno di gelato, io solitamente lo prendo cioccolato, fior di latte, panna e una spolveratina di cacao sopra. Adesso ho assaggiato questo gelato alla frutta che mi ha consigliato quello di Ernesto, che mi piace un po', è buonissimo. Praticamente c'è melone gelato, poi c'è limone, e Macedonia. La Macedonia non è gelato, ma è più Macedonia vera e propria. Ah, Macedonia vera sul... sì, buono, buonissimo, caspita. Frescante, capito? Queste giornate rinfrescanti. Io ho preso i ghiaccioli, ma per non salirmi la glicemia, perché sennò siamo sempre figuri proprio di cornetti. Cornetti, ghiaccioli, biscotti gelato, e pinguini, sempre, tutte le volte che andavo a fare la spesa li compravo. È buono anche il pinguino, buono, perché dentro è tutta panna, c'è quel sottile strato di cioccolato, ah, poi mi piace sotto il dente quando si spezzano, mamma mia che buono. Mamma ieri si è crepata l'ultima coppetta alla Marena, siamo senza gelati, sono in crisi d'astinenza, che poi io non ne mangio tantissimi, perché poi mangio frutta, mangio altre cose dolci, però... bien, già 4 meno un quarto passato, io quasi quasi mi faccio sta doccia, se non lo faccio più, e poi sentiremo quando capita, dai, non ne ho voglia, sono abbacchiato, l'estate comincia a non piacermi più da tanti vari anni. L'estate sta finendo, è un anno se ne va. Salute! Ehi, quanti fatti Giuseppe Mazzia? Al coso, un bel capelli, poi la gente fa anche fare un po' la pata a bui. A Roberto, va. La passate, ma fatti vedere. A canta già per tutte. Come già? La patata è che è buono. Ehi, mi chiedo, lo vado in presa, lo vado, con la patata, lo vedi e le bucci subito. Ehi, io mi ricordo che il periodo che c'aveva proprio quei capelli lunghissimi e la cuffia, no, adesso vabbè, per fortuna si è ripreso Roberto, ma c'era un periodo, una volta era sulla panchina qua vicino, era tutto vomitato sulla maglietta, e poi mi pare l'avessero ripulito al pronto soccorso, non so cosa aveva avuto, l'hanno tosato, l'hanno ripulito e tutto, vabbè, sta meglio adesso. Però se ti senti, perché a Roberto Belicapelli l'ho preso in ambulanza, un bel di busti, e abbiamo attaccato le cose per la leggera che verrà a Viago, e mi sono volati i pidocchi, io speri quella cosa che ci si attacca la dosa. Cazzo, mi sono volati i pidocchi. Vabbè, infatti non poteva stare così, eccetera. Adesso vende queste cosettine tipo ambulante così, no? Accendini, zona via Roma, non so se faccio ancora quella zona lì comunque, dai. Per la passate, se non hanno messo anche su Facebook l'hanno messo, per la passate. Bene, io vi saluto, dai. E ci sentiamo fra una settimana, un mese, un anno, quando ne voglia. Ciao Gianni. E poi non so se... ma e poi gli era guidata la cosa, l'antenna a coso. Va. Uffa, non mi viene il nome, a Nicola. Susi Giamma, l'imbuccia adulto. Te l'ho detto, che non finiva più di ringraziare, non va contento. Oh, c'hai ragione. Ma lui l'ha usata, cioè l'ha presa per la macchina o per usarla da casa? Perché la casa è sempre circondata dai palazzi. Ripeti, Anto, che avete parlato in due. Sento, che chi se lo chiama, Edo, l'imbuccia tutto, mi sono arrebattato. Ha detto che serve, che serve anche a sguardare. Che serve anche a depilarsi. C'era la passata adesso. Sì, ragazzo, mi stavo ascoltando con l'apparecchio. Minchia, ragazzo. Isso, ragazzo. Sì, ragazzo. C'era la passata. A depilarla, magari. Invece te ne stai andando, Marco. Ehi, dimmi già, scusa, abbiamo parlato in due, stiamo facendo casino, dimmi, ho sentito solo, invece te ne stai andando. E ho detto che volevo provare, volevo far scaldare un po' di affaristi, là. Stare qua a scaldarvi un po' perché sono un ombre che non vi faccio girare. Ma sai cos'è già? Devo farmi sta doccia, mi devo preparare la roba per dopo, poi arriva gente. Sarei rimasto volentieri in radio, ma oggi ci tocca. Un po' inviti, un po' ti invitano, un po' devi invitare. Perché noi non siamo molto inclini a invitare, è una rottura di balle avere gente a casa. No, tu quando non stai bene, è ancora più. Vabbè, là, a me già mi fa piacere perché io ho diretto mio figlio, mio nipote a casa e mia figlia che è venuta da Bologna. E quindi un po' di gente adesso, tutti grumiti. Io ho fatto nottata lunga, mi sono addormentato con la TV e praticamente mi sono svegliato, ero in poltrona con la TV, mi sono svegliato perché sentivo gente urlare ed era il telefilm di un poliziesco, non so che cosa, e poi ho spento tutto e mi sono coricato. Ho crepati con la roba da mangiare, sono tutti drummiti, il sonnifero li ho messo, mi sono fatto un giro qua. Va bene, ehi, già entrerà qualcuno già, voglia, se non è qui sul 23, entrerà qualcuno. Dai, fammi fare, lasciami ai miei doveri già. Ciao Bombolo, ciao Antonello, se ancora l'ascolto, Pomponius e Gianni. Da? Ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao, buona doccia. Ma Antu, te l'hai fatta questa? Sì, già fatta. Dopo quando faccio la ricarica, ti faccio vedere le fotografie, dove l'antenna è la casa. Io adesso volevo provare una stazione base, l'ultima che ho preso, là. Che bellino, questa l'ha fatto vedere. Uno, due, tre, prova. Via, no, stavo facendo una prova con l'altra parecchia, vedi come usciva. Probabilmente. Aspetta che attacco la stazione base. Prova già a vedere com'è. Aspetta che attacco la stazione base, l'ultima che ho preso, dai. No, va prova. Adesso stacco questa e attacco l'altra, vi faccio girare un po'. Oh già, c'è quello del CNFM, sì. C'è qualcosa che non va. Guardati l'apparecchio. Tanto se mi ascolti posso parlare. Scegli la M, Gianni. Tanto hai già. Gianni, se sei in AM sei in distorsione totale. No, no, c'è qualcosa che non va, guarda il frequenzimetro, sicuramente è regolato male. Sì, ero in banda laterale, non me ne sono accorto. Guarda adesso come va, tu, 1, 2, 3, prova, cambio. Cazzo, sei più forte, sei. Questa è la stazione base, anche quella che ho fatto, diciamo, l'ho comprata da poco e l'ho fatta tutta con le luci blu. Suga, molto molto superiore. Questo? Sì, poco fa ci avevo meno watt. Scappa, no, già andai già. Bella, è bella, bella. Scappa, Quanto c'è? Con 10 watt questa radio. Hola, adesso che mi convinci? Io a voi, mi sento benissimo. Ho fatto un piccolo lavoretto, tutta di più di 20, 30 modulati. Sì, non ho problemi a sentirti. Cava gara. Sì, è molto bella, se la vedi ti piace. Che radio è? L'Intec 497. Certo, funziona bene, senta bene. No, qua arriviamo a barrive. Ah, va bene già. Sì, ma quando l'ho comprata non era così, no? No, poco fa era più bassa, era. No, questa qui è un'altra, poco fa stavo usando quello modificato. Che capo, da 4 watt, no? No, 2 watt. 2 watt con picchi di 10. No. Ah, ecco perché sentivo tanta differenza. No, questa arriva bene, questo va bene. Oh, yeah. Se trovo il tocco di WhatsApp te lo mando. Capo. Il mio maestro andava a fare la ricarica. Stavo prendendo il poco di Dinac, periodo. E poi una volta sistemato non ne spendi più tanto. No, e compro questo, e compro quest'altro. Cazzo. Sono andato al gatto di Sigman. Ho preso due cosette, cazzo, 8 euro. Due gatti a dare di minorete. Guai se prendo di più, guai. Aspetta un attimo, tu che ti sto mandando quella parete. Sì, tanto non lo ricevo dopo, dopo devo riuscire a farmi la ricarica. Io te l'ho mandato, ma perché non ricevi, scusa? Senza ricarica ricevi, non puoi trasmettere ma ricevi. No, è proprio scaduta, Non ho internet, sono un cazzo. Sei proprio agli sgocci, E cappa. E adesso dopo, come esco? Una via gara, dici. È troppo caldo, cioè. Aspetta che adesso ne provo un altro ancora, il superstar, a vedere come lo sento. Che è avanti? Ah, tu ci sei. Non sta uscendo. Anto, portante muta, sente solo il bip. Guarda che forse invece l'ho abbassato. Guarda che viene lì. Di lusso. Dai, riprendete, ciao. Ehi, dai. Questo è il superstar, Anto. Cazzo, si sente benissimo. KK, il superstar è bello, eh. Un bel apparecchio. È bello sì il superstar. Ma qual è? 3009. Cazzo, pure io ce l'ho avuto un superstar tanto tempo fa. È bello, a me mi piace anche con il microfono normale, adesso sto uscendo con le MB più 5, dai. Su canta forte. Ah, va bene già. Adesso provo l'altro, il Cobra. Provalo. Attenzione Antonio, se ascolti il doppio room col Cobra, cambia. No, perché ti ascolto Gianni. Come va il Cobra? Il Cobra col ZG che ho modificato io. Con l'estero, con il proprio musica. Capo, una bomba, chi è che vuole entrare? Avanti. Non ti ascolto. Attento Gianni, mi senti? Io sì che ti aspetti, sì. E tu mi sei. No, no, che ti ascolto. Ascolta un attimino. Chi è che c'è qualcuno che non stava uscendo di portante? Tu avanti la vista, magari le rabonenti la portate, non i scendi di portante. E qua arriva papà di 9, non lo so, no, ma magari è qualcuno che non sta uscendo. Sì. Avanti l'amico, se non sta uscendo di radio, batti un po'. Sì, passa avanti, ma mi sta giocando a mezza delle balle, chi tu ci fai tu, che vedi la tirozze. Ah, l'Urro News. Adesso disturbano. Ah, infatti, almeno non mette la portata. Ma qua si gioca con la macchinetta della PP, si gioca. Ma non si trova niente, non era rampato il palazzo di Veranieti. Raga! Palazzo indizzava niente, indizzavagliava. Andiva via la gazzeria. Sì, hanno buttato giù quelli, hanno fatto un altro palazzo nuovo. Non me l'aveva detto, è a maniera gioia, non so che cosa. Comunque questo qui è il Cobra, ti piace? Ora te lo mando se ti piace. No, te va bene già. Ciao, è Claudio, Claudio, non ho più sentito. Se ogni tanto vengo. Ciao, avevi come già carbonati. Non so se arrivo più forte della Fedolce. Magari, comunque se arrivi Alessio è vicino. Sì, dice che lui mi ascolta 9:20. Allora, è vicino a Claudio, quindi non è che sia molto lontano. Io pure più in asso, mi pare. Ciao. Fazione, alla bella meglio, dai. Sì, per cominciare già va bene. Poi, già lo sai, si è più perché che si piace. Con le antenne, con le cittadine. Quello che pongo la cantenna a volte, capite che ci vuoti, no? Padrone, vuole. Ma è? Me la vorrei abbia fatto. Vabbè, dai. Già va bene, allora. Lo conosci, ti dico la tua parte da qui. Scappa. A voi fa vedere un orecchio. Cosa che vergogna. Chi è che c'è il micropanico? Qua la mia compagna. Ma la chiama il muziosina. Sì, dai, sta arrivando mia cognata. Oh già, ci sentiamo più tardi, c'è. Ok? Sì, allora, ciao anche, ci sentiamo. Buonasera. Ciao già. E dove andare come compara roba, come se non mancasse. Piano piano ci fa tutto. Giramento di guglione, sempre a spendere soldi. Bicicletta venuta, va a Pidara. Ma vai, ti saluto, ci sentiamo. Ecco. Sì, avanti. Perché mi hai svegliato? E tu perché non te l'aspetti il baracchino? vabbè. Va bene, dai. Stavi bene, ripeti. Me ne vado giù. Yeah. Buona domenica, ciao. Ciao, ciao.